Hola, hola. Va, il Q23. Accendi, avanti. E chi può essere? Buonasera. Come mai sta uscendo tutto un po' male? Male succede, come vai? Forse è un microfono che ti sta facendo la voce un po' di nasina. Oh, che sia così, forse è troppo vicino. E adesso va bene? No, è ancora nasina. Ancora sì. Evidentemente sto con raffreddato sto. Forse è isso. Andiamo. E adesso come sto? Sempre un po' nasina, ma non fa nulla, ma l'importante è che ti senta bene. Nasina, strano però, è il microfono suo originale. Ti fa la voce nasina, ti fa. È chiara, però è nasina un po'. Adesso per allontano mi viene un po'. Intanto ce n'è una, vai. No, così andare. Se rimane così va benissimo. Perché mi ha allontanato, adesso è già sarà 25 centimetri lontano, dai. E adesso è molto vicino, forse è per quello. Forse è quello lì. Forse è quello. E allora, adesso è più lontano e va bene, adesso è più perfetta. Confermi? Sì, sì. Va benissimo così. E allora tu mi dai. Evidentemente questo qua me la vicino troppo e allora mi fa un po' da sicurezza. Già sono raffreddato, Anche il raffreddore ci vuole ogni tanto. E allora, ho visto che c'erano i corridori a piedi, non ci si è andato a vederli. Poi, sono sburro senza macchina, che verrà mia figliura. Sono due giorni che non entro, fa mia figliura. Sapienza non la cazzo. E io pensavo che fosse alla festa. E stanno facendo il giro correndo a piedi, capito? E sono uomini e donne. Ma ce ne sono parecchi però. La gara politica c'era stasera. Ho fatto la gara politica. Potremmo fare che cosa? Si piaccia avere una cosa del genere. Ma io mi sono affacciato e ho visto. Ho che c'erano sull'incrocio, c'erano delle persone in posto giallo e poi ho visto le robe correndo, va. Io non sono andato da nessun luogo che sono senza macchina e poi sono capito. Quindi sono presa stasera anche sta mia figlia e gliel'ho data. Quindi c'era a mercoledì. Il mercoledì si manda e quindi sono così. Quella di Londra qua è? C'è un matrimonio stasera. Ecco perché. E c'è la cassa qui, va bene, andare a capire la chiesa. Da lì alla chiesa non è che sia voltato, è due passi. Non basta che ci ho mai fatto il comanzano, pure la gira, poi negli nonghi, a manco non faccio rotture dei capelli di nessuno. Fatti così, ma una volta per avermi bigliato un gallo. Ma ho fatto a farsi il video. Adesso domani sera. Domani c'è il servizio. Anche Antonello c'è, no? Con voi. Sì, Antonello e Giovanni. La freccia? Sì, già. Non manca mai, Giovanni non manca mai. Ormai dovrebbe andare in pensione da quando va dalla prescrizione. Sì, stamattina verso mezzogiorno ho parlato con i dirigenti, con il prete, con lo nuovo e abbiamo fatto tutto. Che ora è la prescrizione? alle 5, da dopo finita la messa, si fa il giro. Ah, guarda, e allora vediamo la finestra, domani sera, va benissimo, so. Io. Ma facciamo un po' quanto. E poi andiamo a rinfresco. Faccia queste piacere, vero? Ehi, prendo quelli, non mangiatelo. Oh, va giù chiedo di gozo, il portate a 27. Lì ci vogliono le batterie. Che per spostare per non anche noi. Certo. Che riesce a rimanere fermo, no? Faccio mai stasera non me lo brucio. Faccio basta carica e oggi mi fumo. Carichino, oggi toccate cosa è successo. Qua c'è la presa di qua che è invertita. Ma fumo è giusto. Ma cos'è l'apparecchio oppure ricarica batteria? Sì, no, carica batteria oggi mi fumo, mi ha staccato subito. E invece dalla presa deve essersi invertito, no? Mi dà se che non servi su coso, con ruba corrente. Allora, faccio da una presa per il tiro pure, già controllare anche la presa, e tiro, ma è già, avrei un altro per ruba corrente, per cui non c'è problema. Ah, l'hai messo a caricare. Bene, bene. Ah, vuol dire che te lo caricherò anche io, no? Domani mattina va. Sì, no, io non mi so a caricare, carichi sono carichi. Oh, c'ho l'altro che sta caricando ancora. Oh, se deve essere già attaccato. Ne ho due, già basteranno, Antonello già ce li ha, quindi io ne porto uno in più, poi non so se li porta anche Antonello. Porterai tu o se porterai tu, oh, non so, porterai tu. Non fai la cubiatra, va bene, dai, dai, caro carico anch'io, che sotto qualche volta, va. Sì, no, sono due, ce l'ho, il 777 e l'88, ciò. Azioni ho due, ma tutti azioni, ma perché sono nuove, sono solo 10, però sono già tutta per un paio di volte, ma come sono passati. Va bene, vanno bene, ma è infatti no, ma dice no, non trattene, non si sente più nessuno lì, forse non ci sta andando più nessuno. Ogni tanto quando la gente capita di sentire qualcuno che qualcosa a fare, forse qualche lavoro che stanno facendo, perché ogni tanto di senso, dai, no, no, è senso, perché in tutto quando c'è bravo di senso, anche il blocco è quello, ogni tanto di senso, ah, però non posso di senso, ogni tanto, va. Ogni tanto già si muo, quindi fa voglia, se va bene. A pensare, ragazza, si tira la fuga una volta, non si è vero, ragazza, poi non si tratta, tutto bloccato. Ogni tanto qualcuno del lavoro già si sente, che stanno lavorando e cose, che sono lontani uno con l'altro, allora c'è da fare uno quelli lì. Sarà conosco Marco che ha frequenza vaggia. Come fai a conoscere questo? una frequenza. 4,46, 081, punto 25, solo quella a favore. Infatti, lo metto lì, è già lì impostato, lascio con l'impostazione, lascio. Quello è il canale 7, 4,46, 081 è il canale 7. Il canale 7. Ma a pensare che sta in grandi fuoco a un CMR, ragazzi. E da qui ci siamo bloccati. Non beh, gli imbattiano un bel, ecco cosa è. Secondo me glielo pigliava. Con quella potenza minima è oggi per voler che vada, però siamo tre gatti, cazzo, uno si tira all'altro, cazzo, che famo, dai, però qualcuno non sa mai macchina e secondo me non era, ma quello lì era. Sì, vabbè, io l'ho fatto, avevo buscato un antennino, mi sta bruciando un antennino, mi sta bruciando. Io pure c'ho un antennino, l'ho fatta io, cazzo, e sono ancora, vabbè, sono a casa, però, cazzo, mi sembra che sia 56, 53, ma cos'è il vero, con un piccolo radiaio lì, di 15 centimetri, io ho un antennino lungo 50 centimetri caricato, l'ho usato nella macchina, quello attaccato a una calamita, usavo quello, usavo. E anche quello, con la calamita, che un antennino, ma con la calamita, l'aveva la calamita, l'antennino, una volta, quando si è voluto, si ha usato la campagna di antica, me lo prendevo, e parlavo con Marino stesso, e anche con Luca, allora, ma pochi anni fa, e poi che l'ha toccato di forse non c'era più nessuno, capito? Infatti, così, non c'è più nessuno. Andiamo bene, andiamo. Come sta andando il 2018? Sta andando benissimo. Sta andando benissimo. E io non mi sto cambiando, troppo faccia a te, e già sta andando bene allora, tranquillo, va. Infatti. Ma che è già andato. Ma, infatti l'attacco 1, dobbiamo fare. Tanto per me. E io ho provato, adesso ce la può fare. Lo sono fenomeno. Vediamo un po', ma forse lo metterò là, ecco, un paio di giorni fa che va questo qua, sto pronto, lo metterò solo per ore, poi pochi giorni con quello, poi anche in 2000, cazzo, vediamo un po', e basta, non ne ho altro. No, l'ottono però è spento qua, ce l'ho attaccata a cosa, ce l'ho. Ma io l'ho attaccato due qua, li ho attaccati. Sono attaccati, gli altri non sono attaccati, gli altri sono dentro il capo. E ogni tanto mi alla capo a distaccare tutti e attaccare un altro. Però non sono dentro il capo delle altre, capito? Anche non sono veloce. E vabbè, però a farli funzionare almeno un paio di giorni, tanto per farli muovere, capito? Sì, andava bene così, a Puglia, se vanno bene. Sì. E così è. Certo. E la mura di staccare, attaccare. Non c'è posto a me, non avrei attaccato più, però c'è quattro, ma no, non c'è posto. Già va bene così, Giovanni. Un giorno le prende, un ne stacchi uno e attacchi l'altro. Che attacchi, vado già andato a quale sei usata lì? Il presidente sta usando. Quello va bene, insomma. Una bella radio, bella chiara. Va benissimo quella ferita. Anche il secchio va benissimo. Ma le base degli si più. Ma ci siamo arrivati a chi così, come ti giochi chi? Ormai stanno facendo una roba più moderna, più moderna magari sto fare una città, mentre qui magari il materiale era più buono, aspetta adesso fanno gli apparecchi. Il paese può magari la settimana si guardano, cazzo non è un macello, cazzo, cazzo che fa pure tutta la pelle, dai. Infatti, quelli di prima erano molto più buoni, la qualità del materiale era molto più buono prima. Questo materiale sotto nava non si fa nulla. Allora il settore che sta in fondo di produzione a questo qua manca di tiro o il stradinistì che ha portato il settore industriale, ma si sente tutto e queste qua certe cose non li sento del settore sull'altra pericolo sì. Evidentemente c'è proprio roba più buona, da forza è il prevenzione lo faccio diciamo 280 680 io cosa del genere non mi ricordo ma a 30 anni che sta per lì ci sono fatti con un materiale buono però no con un materiale che sono usando è quello che ho detto AM, FM, CCC, USCC, giusto anche piazza vedi ma non c'è più più adesso c'è più degli civici vendendo a ciotti no degli civici che si divisionano se ve ne annuda ma ecco il sentito delle nove mi sarebbe bello un bel apparecchio se fa l'apparecchio per questo lato è un bel apparecchio c'è tutto è quello lì è 220 euro quelli che c'erano che vendevano prima quelli sì che erano buoni poi c'è buccaria che si offendava avevano te dura e bobo durano che mettere con pareggio ci cominciano a bruciare che cosa e come ha fatto quello mio il 5.005 è fatto che aveva 3 giorni e la faccia di un paio di volte vado a chiederlo e accende il display e dopo diventa tutto il vedi meglio che si dividano prima almeno quelli erano buoni come recensione come trasmissione e tutto quanto era male me l'hanno cambiato già lo senti però penso che sta funzionando bene anche solo che non mi piace anche solo prima diventa un po' puro dopo arriva sullo fantosso e invece la frequenza giusta e se invece prima come la senti visto la frequenza giusta io quello l'unico che ho visto venendo che cosa è a Linco dice quello lì è buono l'unico forse l'unico che è rimasto ed è quello lì è buono e Linco ma quello è ancora altri canali però FM anche le fabbriche però è ancora altri canali sembra che l'ho visto altri giorni non lo so io ho visto quello lì e questo è un vedilina non mi ricordo qualche cosa e dai 40 canali però mi sembra e vinto. Sì. Dice che è stato un cacciavale. Ho bologato. E io ho bologato quello vinto. Oh. Ah, boh. No, non lo so. L'ho visto l'altro giorno. Stavo guardando così. Che l'ho visto l'altro giorno. Cosa fare chi su di cosa? Sui. E te già uomo, creato, la bello. Cioè, c'è il 2009, il 2005, e mi sa che abbiamo detto che è 40 canali, ho volocato, mi sembra, ah, male già lo guardo, che è un po'. Per curiosità, so che mi sei, sono già per curiosità, vai. No, ma cammino, no, stavo guardando così, e poi la gioco che ci ho detto, che cazzo mi, ancora in vendita, Sì, tanto, ma, una cosa così che lì, non sono riuscito a calcio a palla. Io pure, certe volte, anche per far sbagliare un po', per cui ho visto vagamente sì, perché ho messo mezza coppa e già su questi tre che mi sono sentito il 2005 e il 2009 e lì è visto e mi sembra che abbia letto 40 canali non so se puro sto non so se puro sempre il suo romano che l'accetto non lo guardo così tanto per sbagliarmi va ogni tanto si intende la propagazione si intende che io già fossi colpa di propagazione sì, da me 40 cavalli sì. E in effetti se ne sono apparito anche stamattina l'ho acceso un po' c'è la molta propagazione però se no, non mi interessa ciao io ma quello che ho appennaggio su mangiando ho acceso quando stavi chiamando tu ho appena acceso la vera quindi ieri avanti ieri non ho manco toccato fanno successo no, certo, no. Magari certa volte lo è stato prima no? Prima alle 7 magari attendo e poi magari ero che decide poi magari è già il gesto decide eccetera e devo scegliere per forza e non la sento fino alle domani capita che queste cose non dico ecco è registrato già così sì un po' di educato avanti il greco ciao Tore buonasera Tore ciao Gio Maria ecco la socio ascolta Tore mi servirebbe un controllo di radio. Allora, la radio è 5 e il segnale è 9. Ehi, papà, non ha nessun rumore sotto la radio? Non ho capito nulla. Ho detto che non c'è nessun rumore sotto, sotto il disco. No, rumore non ne hai, non c'hai nulla, sei pulito, sì. Ok, ti ringrazio, Tore. Ciao, Gio Maria. Ciao, fra. Ogni tanto faccio a te la sentirsi, dai. Adesso io ho la radio esiste, perfetta, lascia la portata e ti dico se c'è qualcosa. No, perfetta fra, è perfettissima, va bene. E allora, ogni tanto lo faccio pure, no? Esatto, ero qua, stavo facendo delle connessioni a un paio di microfoni, adesso ho agganciato questo, nel 24, sul 48. Sono 48 e ero stato provando così a vedere se usciva perché in questa radio non avevo questo barattino non c'avevo nessun microfono adattato e va uscendo bene va benissimo io sto usando il 5005 com'è la radio? Perfetta, bella pulita e vedo un po' allora già fanno bene bra già fanno bene almeno ogni tanto ci facciamo la cavattina a parte a sera, dai. Certo. Ok, dai, adesso becchiamo il connettore, magari ci sentiamo più tardi se ci sia. Niente, comunque mi arrivi 9, anche Tore arriva benissimo, qua 9, avanti Tore, comunque buonasera a tutti, dai, ce la riascoltiamo, che mi devo chiudere questa affare qua. Sì, ok Fra, a risentirci allora, alle prossime. Ciao Fra, stammi bene. Certo, ciao Tore, ciao Giulia. Ciao Fra, buon proseguimento, buone condizioni, ci sentiamo alle prossime. Ciao. Ciao ciao, e grazie del controllo. Ciao. Ciao Fra. Hai capito Giulia, è uscito. Capito, grazie. Ha ragione, lui ogni tanto fa piacere, va? Fa piacere, sì, certo. Va bene, andiamo bene, infatti. Ogni tanto qualcuno ha più figlia, e qua mi sembra tutti addormentati ci sono, per carità. Aspetta un attimino, so. Eccoci qua, so. Qualche apparecchio del microfono che non stava funzionando bene. Anche quello ci serve un po'. Quello che ci serve, ma sta funzionando bene, ragazzi. Non vi state in cicchia, ma è che sembra che ci sia, potrebbe pure magari toccando così, un po' che ci sentivo, perfetto, e fa correre. Sì, infatti, è così. No, va benissimo, va. A Puglia. Sì, no, già va benissimo, a Puglia. Va benissimo. Ma sarebbe altro andare a uscire male con la roba nuova. Senta, allora può succedere. Infatti può succedere, sì. Io lo compreso, andiamo a provarlo, non funziona. Sono belle persone, tanto forse si senta male, senza voce, senza bene, ma si prende il buco, anche gli apparati, se sentite. Sento delle scariche, sento. Ma non andate a vedere qualche scarica. No, ma sento io. Sto le tutte io, che dovrei sentire le scariche. Magari in un'inserzione le scariche sentono le scariche. No, passano anche a te, passano quelle scariche. Se vi accono pure abbortante, riesce a andare a carichi. Far mettere a mettere la portante, quando parlo io, non lo so. Va bene, che sto piccolo e nero, grazie. Passano anche a te, passano. Sei in vicinanza, devi darsi. Allora, cazzo, non lo so, ogni tanto sacciara e vabbè, quindi gli ripiace i gusti, non è che mi tocca, ma manca a me tocca. senza fondo. Vabbè, tu dici che ti piace così. Ora non fare, faccia quello che vuoi, da mangiare a te. No, per tutto non mi manca a me. Poi fai il suo libro, ma dopo che è chiudato, ma per tutto non mi manca. Qualcuno vuole fare un rispetto, ma un rispetto lo fa a lui, non a me, non agli altri. Purtroppo, bravi che possiamo essere, anche se un po' volubile ci sono. Va benissimo, va. Purtroppo. C'è quella gente lì. Vuoi toccare, ecco, basta un toccare. Ma chissà, se non passi a questa cosa ancora lo sta facendo. No, ma a volte che si sente forse si può cantare il canale, allora se mi arriva di risonanza, capito? E poi se ne dico, io non sento nulla. Ah no, deve essere buono, ma non che noi la NFM. Magari c'è un piccolo antenne, perché io non sento niente. Sì, vabbè. A me io non mi ha fatto nulla, a te non ti va venuta e quindi c'è un appuccio. E tu la lira. Certo. Se andiamo bene, andiamo. Franco, boh, ti faccio sentire la voce, dopo tanti mesi, vai e torna da ai parigi. Sorrento bene, ma ti faccio. Devi darsi in tournée, devi darsi fuori, devi darsi un sabato, la domenica è fuori lui, se ne vai a qualche posto. E qua, con la rotta, con la rotta, vai, se dovrebbe la cattiva, perché c'è la sensazione con delle rotte, si trovano quando la persona la parte all'altra. Infatti è così. E vabbè, vuol dire che alle prossime sarà. Fate si stacca di essere in giro, vedrai che stacca la parete. A meno si stacca, vai. Io se mi si ha bisogno. E dove si ti affalità? Infatti è così. Se prendi un po' e sarà così. Sì, del QRM ce n'è poco, solo che ci sono quelli, ogni andato ne c'è qualcuno, che da 3-4 si sente la propagazione. Perché la propagazione va insieme, non è buona, a momenti arrivano forse, a momenti calano, infatti, deve essere anche qui quelle carte che si sono. Sì, no, già è così, infatti. Ogni tanto i cibocchi. No, è un bel rigore. C'è un bel propagatore. E per cui faccio le parti. Ma stamattina sono in francese, c'era. A fino alle 2, cazzo, arrivavano forse. Però sul 35, sul canale 35, forse si dirà. E ora i due che... Fate così. No, no, no, molte volte arrivano forti, arrivano. Molte volte arrivano bassi. La propagazione va in piedi, non so. Quando la propagazione è balorda, a momenti arriva bene, a momenti arriva la male. E questo. Certe volte, ma fa così, forse che mi assurdo, a momenti arrivano forti, a momenti arrivano bassi, e dalla propagazione di paese. Infatti così, la propagazione a volte è forte, a volte è bassa, bassa. E vabbè, se ne arrivi, arrivi, se no, se ne stai di gallo guso. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, ma buio. Andiamo bene. Adesso vediamo, adesso. No, adesso vorrebbe non c'è nulla, nulla, nulla. così fa. Correm ce n'è poco e nulla. Uno è ogni tanto zero completamente. Diciamo che ci sono, dai, non è buio, là. Se cavolo male c'è il mio cuore, dai. Se coincide. Posso di metto, grazie, la chiacchierata, so. Alle prossime. Ci sentiamo, domani ci vediamo dalla finestra. Ciao. Ciao, domani, stammi bene, alle prossime, a risentirci.